Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori del 24, eccoci qua in diretta per questa che è l'ultima trasmissione prima della pausa agostana dei Conti della Belva, ma poi torneremo alla ripresa del palinsesto il sabato 9 di settembre. Lo so, sì. Molti di voi ci hanno scritto in questi giorni perché non c'era scritto che tornavamo. Ma ragazzi, le belve si nascondono, non è che sono qua esposte nel al pubblico comunicatore della conferenza stampa della rete dei Barisoni di qualche giorno, ma non c'era, se lo sono dimenticati. Ma perché? Per consentirvi di dire a sorpresa, forse anche un po' loro, che ci siamo invece e torniamo il 9 settembre. Quindi, non vi libererete di noi. Eccoci qua, i due compari sono qui, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè, più frizzanti che mai, più sul pezzo che mai, perché vedrete che anche oggi siamo esattamente su ciò che trovate croccante su giornali che non so con quanta voglia ancora voi compilate, mentre vi immagino in mare, in montagna, di qua e di là, ma sempre alle prese con questo paese, la cui bellezza, la cui forza, le cui debolezze a noi piace esaminare con lingua lunga un po' tagliente. Ecco, e forse per questo poi veniamo dimenticati nei comunicati, ma detto questo invece ci siamo. Allora, di che cosa oggi potete, se volete, intervenire facendoci il regalo, lo so, ci aspettiamo meno telefonate, dovete recuperare perché siete in vacanza, però 800 24 00 24 per chiamarci, lo sapete, e in diretta per intervenire. Su che cosa? Ci sarà, dopo la consueta rubrica con Mario, i punti della settimana, un bellissimo documento del Fondo Monetario dedicato all'Italia e devo dire la verità... Bellissimo, adesso parliamone. E infatti la stampa italiana lo ha ignorato. Mamma mia, ci sono quei sei grafici ignorato. Che sembrano in un paese civile dovrebbe essere il centro dell'agenda pubblica, quel documento, per come è fatto, le 68 paginette, dovrebbe essere l'asse dei prossimi leggi di bilancio, però questa è la nostra opinione. Ma oltre a questo poi abbiamo un bel blocco sul tema che, ripeto, trova sviluppi e conferme anche oggi sui giornali, ed è un pezzo di questo grande confronto che si è aperto muscolare tra Italia e Francia, e il pezzo è, oltre ai cantieri STX, oltre al nostro ruolo in Libia, al loro ruolo in Libia, nel Mediterraneo, eccetera, quello che riguarda la presenza di BVND a cavallo tra la Mediaset da una parte e TIM dall'altra. E noi ci interrogheremo sul punto, ma non è che sulla rete di TIM c'è possibile uno scambio, visto che BVND punta contemporaneamente per la Pay TV sia su TIM, sia, ci ho provato prima ed è bloccato, su Mediaset. Oggi la prima conferma di Puy Fontaine dice della rete, parliamone. Ecco, esattamente questa è a pensar male. La nostra ipotesi. Ma non è che è possibile un grande patto del Nazareno in cui si leva da una parte e si aggiunge dall'altra? Guardate che la rete di ex Telecom Italia fa gola allo Stato da sempre, ma comunque ne parleremo, e quindi è un pezzo del grande round pugilistico tra Italia e Francia, anche se questo riguarda solo il privato e non la parte pubblica. Dopodiché, dopo il giornale radio, andiamo sull'altro fronte rovente, dovuto al coraggio e alla rettitudine del direttore generale dell'ATAC, l'ingegner Rota, che giustamente nelle sue interviste, oggi ce ne sono altre, dopo aver informato tutti di aver detto al sindaco di Roma questa azienda è in condizioni finanziarie di non essere solvibile, deve andare al concordato in continuità preventivo, visto che la sindaca ha nicchiato, lui lo dice in pubblico, fa il suo dovere, viene messo alla porta, se n'era già andato a dire la verità. E però questo è un tema che si pone a Roma, come vedremo in maniera del tutto analogo si pone a Napoli per l'ANM, e la grande domanda diventa: è corretto chiedere ai manager pubblici nominati dalla politica, alla testa di azienda in queste condizioni, di parlare chiaro sui numeri, o invece è comprensibile che la politica dica state zitti? Immaginate voi come la pensiamo noi, però avremo con noi l'ex amministratore delegato della ANM di Napoli, che se n'è andato dicendo in pubblico praticamente le stesse cose di Rota. Avremo un amico, Andrea Giuricin, mentre per la parte di Telecom Italia e Vivendi e Mediaset avremo con noi Augusto Preta e Massimo Giannini, e ovviamente poi ci raggiungerà, speriamo, anche se dall'altra parte dell'oceano, bisogna vedere, una questione di jet lag, se Renato Cifarelli riesce a raggiungerci. Oltre a questo, immediatamente aggiungiamo altri argomenti. Che dici? Che cos'altro ti ha colpito, Mario? Allora, a me ha colpito un discorso, una mossa, una circostanza che si può allargare al pianeta. Io parlo del disfacimento del Partito Repubblicano Americano, che non ne azzecca una. Stanno cercando di abolire la riforma sanitaria di Obama, vanno a votare a oltranza, sono 7 anni che rompono i coglioni, scusate il francesismo, mettono in piedi repeal, repeal and replace al gusto di cioccolato, amarena, nocciola, eccetera, poi trovano sempre la maggioranza che va da un'altra parte. Sono travolti da un presidente che è veramente qualcosa di incredibile. Può darsi che l'impeachment sopraggiunga per problemi mentali più che politici, perché di questo passo credo che la strada sia quella. Però questo era un grande partito che ha fatto la storia degli Stati Uniti e che si trova, non da ora, a dire il vero, lacerato, bipolarizzato, ma soprattutto quello che mi colpisce è che questi comportamenti, queste situazioni che somigliano all'impazzimento da maionese che noi italiani conosciamo bene, hanno oramai ghermito, si sono impossessati della politica americana. Piccolo particolare, gli Stati Uniti non sono l'Italia. La loro rilevanza, la loro possibilità di fare danni planetari con un fallout di distruzione, se non riescono a restare in piedi, è veramente molto grave. Per cui viviamo in un'epoca di complessità crescente. Capisco meglio i nostri piccoli politici italiani nel loro piccolo e irrilevante cortile, per cui credo che ancora una volta e ancora di più ci aspettano tempi interessanti, il che è proprio la famosa maledizione, no? Orientale, possa tu vivere in tempi interessanti. Quindi cerchiamo di mettere che anche l'ordine presidenziale non ha ancora emanato, che c'è stato solo un Twitter sui transgender fuori dalle forze armate, il congresso non lo fa passare. Ma no, infatti pare che il capo di Stato Maggiore abbia detto: voglio un ordine diretto e corretto, non un tweet. Sì, quindi infatti, anche quello ha il suo peso. Va bene. Io invece devo darvi una buona notizia, degli amici spagnoli, che come dire, quatti quatti, despacito despacito, se posso dire, okay, lentamente lentamente stanno risalendo la china della crescita. Ragazzi, fare il 3.1 su base annua mi sembra una cifra molto importante, Mario. Tra l'altro, appunto, avendo ridotto del 38,4% il deficit delle amministrazioni centrali. Ma come? Esatto. Ma come? Non abbiamo l'ex presidente del Consiglio che vuole raddoppiare il deficit per favorire la crescita, e questi raddoppiano la crescita e dimezzano il deficit. E aggiungo, aumentano i salari, ma li aumentano meno di quanto facciano crescere la produttività. Ragazzi. No, ma qui non esiste. È un miracolo, questi, ragazzi. Fermateli, capite? Perché stanno veramente danneggiando la reputazione dei nostri luminari di politica economica. E insomma, quindi trovo che in questo quadro di cattive notizie almeno gli amici spagnoli ci stiano dando qualche piccola soddisfazione di un paese che si è rimboccato le maniche, che ha sistemato le banche a tempo debito, non perfettamente, fatemi dire, ma le ha fatto, che ha fatto un discorso di politica del lavoro secondo me intelligente per la natura del paese. Non è un paese che potrà esplodere, però si è messo sinceramente e strutturalmente in sesto. Sì. A me sembra una buona notizia, possiamo darla. Infine, posso dire, prego, da che canzone ripartito? Despacito Despacito. Allora, onore ai due cantanti di Despacito Despacito che hanno rivolto a Maduro in Venezuela, perché nel frattempo c'è questa tragedia in corso di cui sembra che il mondo civile non si occupi, siamo rimasti siamo indifferenti a quello che capita ai poveri venezuelani ridotti alla fame, a essere sparati per strada dal regime. E i due autori di quel successo clamoroso internazionale, che mi lascia indifferente, però non posso far finta di non sapere che è così, hanno detto: giù le zampe Maduro della nostra canzone, tu sei un fascista, perché lui ne ha fatto una versione cambiata a proprio favore. Ecco, onore a questi due cantanti, hanno più coraggio loro dei governi dell'Unione Europea. È vero. Quanto a mezzi fascisti, se posso dire, l'aggressione di ieri davanti al Parlamento dei Novax contro alcuni parlamentari che si apprestavano a votare il decreto sui vaccini, francamente mi lascia esterrefatto, perché se arriviamo alla violenza o comunque alle minacce su un tema che dovrebbe vedere un'unione convergente di una nazione che guarda i dati scientifici. Mario, non so cosa dici, ma cioè, dove stiamo andando a finire? L'Italia non si mobilita per problemi gravi e dopodiché abbiamo la gente per strada che protesta contro un decreto magari scritto maluccio, ma con una compliance così bassa, in particolare per alcune malattie infettive come il morbillo. Siamo nettamente sotto ai livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma come facciamo a fare battaglie, non dico di retroguardia, ma non so come dire, criminali, contro il principio che deve prevalere la salute pubblica sulle, diciamo, soggettive scelte dei genitori. Ma loro non vogliono la coercizione, bensì la persuasione, il nudge, come si usa nei paesi civili. Sì, quelli che hanno un bisogno. Modello culturale che non richiede la coercizione. Ricordate che la coercizione insorge quando la popolazione non capisce un cazzo. Questo è il problema. Questo è il problema. A maggioranza semplice, a minoranza qualificata. È inutile anche cercare. Stamattina leggevo che pare che il tentativo di fare debunking delle cospirazioni non produca alcun effetto, certo. O produca effetti perversi, nel senso che comunque rinforza la credenza, esatto, di chi sta dall'altra parte. Quindi è perfettamente inutile. Dopodiché io resterei sempre dell'idea che occorre che chi assume una decisione ne paghi le conseguenze, perché ho ancora, come dire, una piccolissima traccia libertaria nel mio DNA e nel mio sangue. Però nel caso dei vaccini, a pagare le conseguenze sono terzi innocenti non protetti e che non possono essere protetti, non quelli che assumono su di sé la decisione e che quindi non pagherebbero le conseguenze. È quello che ci frega, perché altrimenti io ho massimo rispetto per quelli che vogliono suicidarsi. Abbiamo 3 minuti. Dimentica i compromessi, scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta della belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non ti preoccupare. Ecco, e questa settimana, l'altro ieri, 68 belle paginette di report dedicate all'Italia dal Fondo Monetario Internazionale, non ci hanno detto ricordati che devi morire, però ci hanno rigorosamente messo di fronte al riepilogo dei problemi irrisolti, e ce n'è un bel po', a cominciare da quelli che molti vorrebbero risolti e non lo sono, come il credito deteriorato, i bancari di cui ci occupiamo spesso, a cominciare da un welfare scoperto per i giovani e tutto con rivolto e concentrato agli anziani, a cominciare dalla produttività, tanto per cambiare. Insomma, su quelle 68 pagine, siamo tutti d'accordo noi, dovrebbero essere e il documento e gli argomenti su cui davvero classe dirigente seria dovrebbero dire: ecco, concentriamoci su questo, caro Mario. Questo è il problema. Io sono abbastanza colpito dal fatto che comunque questa era la consultazione ex articolo 4, cioè quando il Fondo Monetario Internazionale manda un team in un paese per molte settimane, fa un check generale e poi identifica punti di forza e di debolezza. Ma non perché il Fondo Monetario Internazionale sia la divinità a cui dobbiamo genufletterci, Solo perché quei dati che hanno evidenziato sono reali, cioè sono punti di vulnerabilità. Mi colpisce molto, per esempio, un welfare, ma non lo scopriamo ora, un welfare che non protegge le fasce realmente povere della popolazione. Certo, qualcuno potrebbe dire che stiamo iniziando a lavorare in quella direzione. Benissimo. Mi colpisce il fatto che la spesa italiana per le politiche attive del lavoro è la minore d'Europa. E i risultati ancora peggiori. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti, perché alla fine poi mi si dice: sì, però le famiglie sono il primo nucleo di welfare, quindi proteggiamo i pensionati, andiamo a farli stare meglio. Ma volentieri, ma la coperta resta corta. Stiamo ammazzando generazioni di giovani, ammazzando, con l'illusione che tanto i genitori e i nonni qualcosa gli potranno dare della loro pensione. Cioè, queste non sono cose che si sistemano in una legislatura, sono cose che si sistemano in una generazione. Esatto. A me ha colpito moltissimo il fatto che il Fondo Monetario Internazionale mette in pesantissimo dubbio le stime del nostro Ministero dell'Economia per quanto riguarda l'andamento della curva pensionistica nel corso del tempo. Perché fondate su un tasso di disoccupazione che il 9%, quello stabile di lungo periodo, che al momento è irrealistico, fondate su una crescita della produttività e del PIL pro capite che al momento è nettamente irrealistica. Soprattutto se nello scenario di bassa crescita della produttività, noi avremo da qui al 2045 una devastazione, quelle pensioni che incideranno nello scenario alternativo fatto con assunzioni demografiche meno blande, meno rassicuranti, al 20-22% la spesa pensionistica sul PIL, che vuol dire che il paese è spacciato. Esatto. Quindi questo è un problema. E se posso dire, massima stima, massima considerazione per Tito Boeri, che poi probabilmente non voleva neppure fare quel tipo di discorso, però attenzione, l'immigrazione magari servirà pure per il flusso contributivo eccetera, e anche lì si potrebbe parlarne, ma se è una immigrazione non qualificata, visto che i dati sul fatto che noi esportiamo gente mediamente qualificata e importiamo mediamente gente assai poco qualificata, per non parlare anche delle compatibilità culturali, ma non voglio andare troppo lontano, beh, questo non ci prepara un bel futuro, perché magari sul piano contabile, finanziario, di un vago equilibrio finanziario dell'INPS può andare bene, ma avere un paese di raccoglitori di pomodori, spesso in nero, un paese che evolve verso i voucher o altre cose, ci fotte, perché il nostro investimento in capitale umano si disintegra. Sull'arco di una generazione questo paese è morto. Quindi è inutile che stiamo qui a discutere come confrontarci con francesi e tedeschi. Al di là della quotidianità e della contingenza di un governo, di un sistema politico e di un sistema paese che non è mai stato così debole. E quindi non siamo interlocutori per nessuno. Finito questo pippone, volevo parlare di un paio, volevo parlare solo di un paio di dati. Sono uscite le prime stime del PIL del secondo trimestre e sono molto buone per esatto. Chi ha pubblicato. La Francia conferma un ottimo 0,5%, che vuol dire un più 1,8 su base annua. Notare che in questo caso, visto che i francesi sulla prima stima, il loro istituto statistico già dà sulla prima stima la disaggregazione, il nostro purtroppo no, e ci tengo a rimarcare questa cosa, questa volta i francesi hanno fatto la crescita con le esportazioni nette, mentre l'accumulo di scorte del primo trimestre è stato completamente riassorbito. Domanda interna finale a più 0,4, senza lode e senza infame, anzi robustina. La Spagna più 0,9 nel secondo trimestre, più 3,1 anno su anno. E cosa vogliamo dire? L'Italia, la prima stima italiana uscirà il 16 agosto, probabilmente ci sarà un trascinamento positivo e favorevole, sempre inferiore a quello che vediamo, e probabilmente saremo ancora a sentire, non noi perché noi non saremo in onda, ma tutti voi sarete lì a sentire che è un trionfo, le riforme del governo dei mille giorni hanno trascinato il paese verso questa grande vittoria. Vabbè, fate vobis. Chi continua a credere che l'Italia sia una monade, che resta, che cresce per meriti propri e non perché è in una zona, in una regione che ha il massimo di crescita degli ultimi 8 anni, vuol dire che ha capito veramente poco. Smettete di guardare l'ombelico o quello che sta più giù dell'ombelico e guardate anche fuori dal cortile di casa. No, guardate pagina 5 del report del Fondo Monetario. Io quando l'ho vista, Mario, questi sei grafici sono una raffica di mitra sui denti. Sono stati sconfortanti, non so. E purtroppo non sono segnali, come dire, che possono cambiare domani mattina. Neanche il governo può cambiare l'andamento di quelle cose, se posso dirti. È veramente un tema di coscienza nazionale. Esatto. E questi grafici andrebbero appesi per strada con i manifesti per far capire a tutta la popolazione che serve veramente un colpo di muscoli, non posso dire reni che non lo sono, un colpo di muscoli della schiena per rimetterci. Sai, posso dire, caro Alberto, io non so i muscoli, perché i muscoli, l'apparato semplicemente muscolare, cioè quello che dà l'idea dello scatto di reni, no? Di come gli istinti ci fanno reagire in maniera rapidissima a un pericolo imprevisto, secondo me non danno bene l'idea, se ci pensi bene, perché lì c'è bisogno veramente di coordinare tutto l'apparato motorio e cerebrale, perché quei sei grafici lì che riguardano il PIL pro capite, i salari, il reddito disponibile, l'andamento della produttività multifattoriale e così via. Anche gli investimenti, perché sugli investimenti un paese che i soldi ce li ha e li mette sotto il materasso, questa cosa mi fa incazzare, perché la prima cosa che deve ripartire è quella. Se, perché se chi ha i soldi se li mette in tasca o se li tiene sotto il materasso, puntando su rendimenti negativi o nulli, e non ha questo coraggio, e allora capite che tutto il resto non parte. Guarda che secondo me la battaglia da fare, caro Oscar, è questa: tirare il carro degli investimenti creando le condizioni. Tant'è vero che, fammi dire una cosa, i dati degli investimenti sull'industria 4.0 sono molto positivi. Sono molto positivi. E perché per una volta il governo, grazie a Carlo Calenda, si è impuntato sul dire stavolta diamo un incentivo chiaro a chi investe, certamente con distorsioni, con bolle, e lì quando dai una finestra ci si buttano gli italiani. A me sembra una priorità importante far ripartire gli investimenti privati, che non vuol dire comprarsi per 78 milioni di euro esatto, adesso ne parliamo, mezzo marcio in Francia. Adesso ne parliamo. Vabbè, dai, adesso non... vedremo cosa sceglie la legge di bilancio. La legge di bilancio che arriverà a metà ottobre, parte, cari ascoltatori, con le caratteristiche di una legge di bilancio tra le più, tra virgolette, leggere per vincoli chiesti dall'Europa. Cioè Gentiloni in questo si trova molto avvantaggiato. Si trova molto avvantaggiato perché ricordiamoci che delle clausole automatiche fiscali, di aumento fiscale a copertura altrimenti del deficit che sfugge di mano, in realtà gliene sono state abbuonate i tre quarti, cioè gli restano 5 miliardi scarsi, esatto, addirittura. E riusciranno a fare danni coprendo quelli, vedrai. Esatto. Dopodiché c'ha un margine vasto, anche perché vedrete che sul PIL, noi diciamo, invece che crescere da un terzo al massimo alla metà della media dell'euroarea e dell'Unione Europea, passiamo a crescere un terzo in meno. Ecco, più o meno questo è il tasso attuale, certo, di ripresa europea. Però anche questo aiuta Gentiloni dal punto di vista delle risorse a disposizione. Io mi auguro che le due cose che hanno in testa fondamentale, perché da una parte c'è la conferma di Industria 4.0, poi c'è l'idea di un grande bonus elettorale ai giovani sulle pensioni per chi ha bassa continuità contributiva, finanziato in deficit, vediamo, perché se non è una misura strutturale io inizio a storcere il muso. Dall'altra un'operazione di decontribuzione sull'IRAP, IRAP per IRES, da quello che si capisce per le carte che ci sono al Ministero. Vediamo entrambe. Meno sono bonus a tempo elettorali, meglio è, meglio questo è, dovrebbe, certo, essere chiaro, però temo che non lo sia, a dire il vero. E non basterà l'export, fammi dire, per salvare il destino di questo paese, sempre sui dati del Fondo Monetario. In 15 anni, 16 anni dal 2000, la Germania ha più che raddoppiato l'export, la Francia ha fatto più 150, la Spagna ha fatto benissimo, ha fatto più di 170, e l'Italia ha fatto bene, ma ha fatto 135, cioè ha fatto 35% in più. Quindi, per quanto l'export cresca, non cresce neanche al ritmo della Spagna. Ma sicuramente Marco Fortis direbbe che sono tutti sbagliati quei dati, perché noi abbiamo sicuramente battuto tutti. No, sto ridendo. Vi segnalo anche, per chi volesse approfondire, sul sito di Bruegel è uscito un bellissimo lungo saggio di Papadio dedicato all'argomento, questo lettura ad agosto, se per chi volesse approfondire. Compiti delle vacanze. Ma tutti i dati che conosciamo dell'andamento del PIL, del reddito italiano, delle esportazioni, guardandoli seriamente, al di là di chi lo propone, delle opinioni pregiudiziali, si può davvero sostenere che è stato l'euro ad avere un impatto sul PIL, reddito ed export? No, ma la risposta è argomentata. È un saggio di lungo che esamina però grafici alla mano tutte le diverse questioni: il PIL, il reddito, l'export. Io ve ne consiglio la lettura, perché è scritto in maniera impeccabile, ci sono tutti i dati, la risposta è no, ma non è una risposta pregiudiziale, cioè prende sul serio tutte le singole obiezioni e dà delle risposte dicendo neanche in termini, per così dire, di correlazione, non dico di causazione, è possibile sostenere una cosa simile. Benissimo, ci sentiamo tra un momento. Questo programma è presentato da Credimi.com, il finanziamento digitale. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati qua in diretta, fino alle 11 parliamo di uno degli aspetti più rilevanti per l'impatto che ha sulla struttura, sulla proprietà di un segmento, quello delle comunicazioni, sia dal punto di vista di infrastrutture sia dal punto di vista di chi produce contenuti, che dovrebbe essere, lo è, no Carlo Alberto, da tanti anni è una specie di fucina avanzata in altri paesi dell'Occidente, del mondo avanzato, ma anche meno, del mondo in generale. Noi siamo bloccati da un vecchio problema, era quello del duopolio della RAI, poi siamo aperti alla concorrenza con un elevatissimo effetto positivo per il consumatore sulla telefonia mobile, ma gli asset di controllo della privatizzata Telecom Italia hanno continuato nel tempo a produrre instabilità e incertezza. Siamo comunque a questo. Nel quadro di fondo della partita, che vede muscolarmente impegnata Italia e Francia sulla posizione Macron, molto più nazionalista e meno aperta alla concorrenza di quanto si immaginasse, vedi la vicenda dei cantieri di Saint-Nazaire, e nel mentre la Francia tenta di dire la Libia è roba nostra, e in fondo la leadership italiana chiesta dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti per 3 anni non è mai stata esercitata, quindi non ci sono, c'è a pieno titolo la vicenda che riguarda la posizione di Vivendi Bolloré a cavallo della gestione dei diritti di esercitare l'indirizzo dell'azienda, oramai formalmente ammessi ieri da parte di Vivendi in team, da una parte, e dall'altra la partita che aveva lanciato in precedenza e su cui è finita blindata contro il muro delle autorità, dall'antitrust all'autorità di settore, partita con un'intesa poi abortita sulla pay TV di cui si dovevano disfare gli amici di Mediaset, e che poi ha finito per imbastire il futuro di Mediaset. Sembrava all'inizio, Carlo Alberto, che la Vivendi, che era uscita dalle infrastrutture fisse nel suo paese, fosse interessata a un player europeo di contenuti e quindi desse una prospettiva, la proponesse in maniera graduale anche a Berlusconi, a propria volta bloccato nello sviluppo europeo, per dire mettiamoci insieme una grande intesa di contenuti, e invece di fronte alla malaparata si rafforza il controllo fino a esercitare i diritti pieni di gestione e a cambiare l'assetto, a cambiare l'amministratore delegato, che faceva benissimo Cattaneo in team. E oggi trovate sui giornali la conferma ufficiale, riapre allo Stato la trattativa sulla rete fissa, parliamone, dice De Puy Fontaine, dopo aver il giorno prima, 24 ore prima, detto ma no, noi la pay TV la facciamo con Tim, non la facciamo con Mediaset. Quindi una pluralità di segnali che io, Carlo Alberto, prima di tutto, prima che i nostri due ospiti, vorrei capire, ma te che sei da sempre, te come la interpreti questa posizione di Vivendi? È una finta quella in team per dare qualcosa allo Stato e farsi dare l'ok a tornare più forte, anche con risorse in più da Berlusconi? Oppure che cos'è? È l'inizio di un grande nuovo scenario, prepariamoci, perché da oggi è insediato Amos Genish, che è un tostissimo comandante israeliano da combattimento, è cresciuto in un contesto difficilissimo e ci farà vedere cose che in Italia non abbiamo mai visto in realtà. Ma secondo me risolve più che altro la presenza in Brasile. Io sbaglierò. E comunque sì, risolve la presenza in Brasile, che è un tema appeso da tempo. Certo. Affronta il futuro della convergenza in questo paese. Cioè, cosa succede del mondo media e del mondo rete? Si va verso una integrazione verticale in cui chi gestisce la rete gestisce anche i contenuti, oppure più probabilmente, come Vivendi ha fatto capire con le scelte vere, quelle di strategia di lungo periodo, la rete è solo un modo per acquisire i clienti, per acquisire i loro account, conoscerli, e poi è una zavorra da abbandonare. Quindi io mi aspetto sinceramente che... Mi stai dicendo quindi, se questa è la prospettiva di questo governo, anche tu, che in definitiva la prospettiva che dall'altra parte, per esempio Massimo Mucchetti, presidente della Commissione Industria, questa settimana voleva un voto, poi il governo Gentiloni gli ha chiesto per favore, c'ho già tanti guai, evitami questo, sì. Massimo, perché Massimo Mucchetti diceva, parliamoci chiaro, la rete di Tim, senza di cui l'azienda non c'è più, ma questo è un altro paio di maniche, perché tutto è appiccicato alla rete dal punto di vista patrimoniale, dei margini che si fanno, Telecom Italia è ancora la sua rete fissa, e lo scontro su la Tim deve upgradare comunque la sua rete anche nelle aree non di mercato, certo, dove vince Open Fiber pubblica, e lo scontro per cui è andato a casa Cattaneo, mandato a casa da Renzi e i suoi, cioè, non solo da Vivendi. Però detto questo, mi fai capire che ha senso quindi avere il dubbio, io ce l'ho, che Vivendi possa dire, strizzare l'occhio la parte pubblica che vuole comunque da sempre riprendersi la rete di Telecom Italia. Certo, in cambio di una Pax televisiva di contenuti, guarda caso, offerta su un piatto d'argento ai renziani. Quindi ripubblicizziamo la rete, la ridiamo Open Fiber dell'Enel, della CDP, e ci illudiamo che questa sia una grande partita, la rinazionalizzazione della rete. È uno scenario da non escludere, perché a Vivendi non interessa nel lungo periodo metterci miliardi. Fantastico. In compenso interessa la fusione con Canal Plus, e te l'ho detto chiaramente. Dupuy Fontaine, che dice: io sono interessato a fare un'opera, fare, però, e se lo faccio con Mediaset di lungo periodo è un grande nazareno, è un grande nazareno, perché significa, secondo me, un un'operazione che piace a Renzi e ai renziani, perché si pigliano la rete pubblica, non solo ai renziani, piace a tre quarti di questo paese, e a Berlusconi. Ma dai, scusate, però che cos'è Tim senza la rete? Sono d'accordo e con spunta te. Dalla, lo ha scritto Franco De Benedetti un questa settimana. Di traffico libero. Diventa un reseller di traffico, diventa un'entità commerciale. Però, allora, questo per far capire quali sono i nostri dubbi, perché i dubbi potrebbero essere che a quel punto l'eredità di Renzi di lungo periodo è che abbiamo rinazionalizzato l'Italia e nazionalizziamo la rete di E dopo il nocciolino arriveremo al cetriolone. Però il punto è, abbiamo due opti per interrogare loro come la pensano, perché noi può essere che siamo troppo appassionati oramai delle trame italiane, che però su Telecom ci sono, cioè la presenza di Bernabé a me fa immediatamente evoca che questo è lo scenario, perché Bernabé è in Telecom da sempre per realizzare la cosa che lo Stato o una grande telco pubblica europea, perché all'inizio lui ha provato si prendesse l'infrastruttura, no? Allora abbiamo due ospiti ai cui chiediamo appunto questi due aspetti della faccenda, perché sono con noi Augusto Preta, trovate i suoi scritti nel tempo, per esempio, sulla voce.info, è un economista, analista di mercato, fondatore e amministratore unico di ITM Media, e ad Augusto, che ringraziamo di essere qui, chiediamo soprattutto la sua valutazione dal punto di vista sulla convergenza in atto in Europa e nel mondo tra produttori di contenuti. Lo spinge a credere che quale dei due player a cavallo dei quali si è messo Vivendi, perché visto che la Pay TV la propone sia Berlusconi che a Telecom Italia, sia quello che ha più senso per Vivendi? Intanto grazie di essere con noi, Augusto. Grazie a te, grazie a gli altri qui, insieme a me. E poi Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, e a cui chiedo invece una riflessione sul centro politico della faccenda, perché avete capito che è una partita dietro la quale c'è una convergenza di mondi, di destra e di sinistra, insomma, io lo dico, il grande nazareno della TV. Massimo, grazie di essere con noi in questo sabato mattina di ferie. Ciao Oscar, buongiorno, grazie a voi. Allora Massimo, ma tu ci credi all'ipotesi che possa essere un grande bergè, un grande affare che ricuce sul punto di vista degli interessi dell'azienda di Berlusconi e degli interessi di Bolloré, utilizzando come merce di scambio la rete di Telecom? O sbagliamo noi e siamo matti? Tu che dici? No, beh, avete squadernato magnificamente i temi del dibattito. Dopodiché io continuo a non capire dove vuole andare a parare Vivendi, Bolloré, perché appunto in questo momento mi sembra, tu l'hai messo perfettamente in evidenza, i segnali che lancia da un giorno all'altro sono in perfetta contraddizione, no? Ora l'ultima apertura sulla rete è interessante, ma sembra avvenire, diciamo, un po' fuori tempo massimo, perché questo è stato a lungo un tema al centro del dibattito. Sappiamo bene che è una cosa che sta a cuore Renzi, sappiamo altrettanto bene, l'hai detto tu, che Bernabé lavora da sempre a questo scenario. Tuttavia già Starace con Open Fiber si è sfilato, ha detto: noi questa roba ormai non ci interessa più, andiamo avanti per la nostra strada. La rete Telecom comunque, ancorché in parte ormai vecchia, perché è prevalentemente in rame, costa in ogni caso 15 miliardi, quindi è un'operazioncina non da poco, perché poi c'è da chiedersi, senza la rete, l'hai già detto tu anche questo, perché hai già detto tutto, Telecom che cosa vale? Diventa una scatola vuota. Ma al di là di questo, no, appunto, quello che io ancora faccio fatica a capire, ammesso e non concesso, ed è probabile che sia così, che Vivendi e i francesi usino la trattativa sullo scorporo, sullo spin-off della rete come merce di scambio per fare altro, ma a quel punto altro non può essere che prendersi in qualche modo, attraverso quale accordo lo vedremo, Mediaset. Sì. Ecco, il convitato di pietra di tutta questa roba è però Silvio Berlusconi, al quale, a me sembra, questa idea non va a genio, cioè loro stanno resistendo alla avanzata di Vivendi. Che cosa può trattare Berlusconi e convincersi così a lasciare in qualche misura campo libero all'avanzata dei francesi in casa sua? Lì allora ecco viene in campo una trattativa più generale che ovviamente riguarderà forse anche la politica. Però io sì, perché io ho l'impressione comunque che da questa partita noi non avremo il risultato se non dopo le elezioni del 2018, perché ormai si voterà nel 2018. Perché io immagino, per dire, ed è un'ipotesi che ormai noi non possiamo escludere, che il centrodestra può vincere queste elezioni, anche se Berlusconi non fa il Presidente del Consiglio, perché non può farlo, essendo che la sentenza della Corte europea arriverà fuori tempo massimo, ammesso e non concesso che sia a lui favorevole. Però se Berlusconi vince le elezioni, facciamo questa ipotesi, io penso che tutto questo scenario che noi andiamo trattando andrà rimesso totalmente, e lui diventerà il domino di questa partita, con tutto l'enorme conflitto di interesse che noi sappiamo. E allora anche queste schermaglie, queste trattative alla luce del sole, più prevalentemente sotto banco, alle quali stiamo assistendo oggi, sono scritte sull'acqua. Non c'è dubbio. Dopodiché è chiaro che il nodo fondamentale riguarda l'assetto del nostro sistema, sia delle comunicazioni sia dei contenuti. Su questo a me sembra che ci sia ancora grandissima confusione sotto il cielo, ma da tutte le parti, sia da Vivendi, che non ci ha spiegato dove vuole andare a parare, sia da parte di Berlusconi, che al di là di questa resistenza mi pare che non metta in campo finora almeno media, se non ha messo in campo. No, perché io ti dirò, se mi chiedi, beh, è del tutto opinabile, ma Berlusconi come la pensi? Io ho sempre avuto l'impressione che lui si opponga chiarissimamente a un metodo che è il metodo travolgente di una carica cavalleria portata dai francesi. Cosa diversa è dire: ma hai di fronte a te con i tuoi figli un quadro sviluppo europeo della tua azienda? No, realisticamente. Avete le risorse finanziarie per fare voi acquisizioni nel settore? No. Certo. Quindi il problema è un accordo. Evoluzione tecnologica digitale? Esatto. No, né no. Soldi né testa, ecco. Se posso dire. No, mi sembra adesso senza la testa non lo so, però i soldi non ci sono. Purtroppo restiamo alle cose oggettive. Quindi conclusione. Un quadro di accordo per un grande player, quantomeno europeo, fatto con una giusta trattativa, l'equilibrio, il rispetto, e tinti sulle i vetri che tintinnano nella sala da pranzo, il giusto rispetto per l'evoluzione dei figli e soprattutto con un bel po' di danè per fare il prezzo finale, a questa prospettiva Giannino il Fesso senza titoli dice: beh, voglio vedere se non è interessato. Ecco, questo si può fare. Ecco, certo, questo certo. È un po'. Vedo che la convergenza comincia a formarsi. Il problema, naturalmente, è che tutto questo avvenga fottendosene poi di che cosa sarebbe l'interesse del mercato italiano, dei consumatori italiani. Certo. Ma questo lo sappiamo, che sono partite che girano così. Però io la penso come Massimo Giannini. Abbiamo tanti dubbi, tutto può cambiare. E l'orizzonte, oltre alle elezioni, ma il tema c'è, non siamo visionari noi ad averlo, noi facciamo il nostro mestiere di tirarlo fuori esplicitandolo, anche in termini un po' paradossali, però il tema c'è, troppi protagonisti di questa vicenda hanno le impronte digitali e l'identikit della foto negli archivi della polizia, collegati tutte a questa vicenda della rete dello Stato in cambio di un grande favore agli attori dei contenuti e dell'infrastruttura dell'industria multimediale della comunicazione. Allora, assolto questa prima parte del problema, dopo un minuto di pausa, quindi grazie intanto a Massimo Giannini che si è prestato da par suo a questo dubbio asseverato, andiamo poi al punto, ma dal punto di vista di quello che fa Vivendi, che cosa ci può far immaginare che gli convenga di più nel futuro? Stringere con quale dei due partner e a che prezzo? Con Augusto Preta torniamo tra un minuto. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. E Eccoci tornati qui in diretta con i nostri compari Mario e Carlo Alberto. Abbiamo sentito Massimo Giannini, giornalista di Repubblica, su ha senso ipotizzare, sospettare l'eventuale interesse a un grande scambio da parte di Vivendi, che ora ormai esercita il controllo, appena mandato via il Ministero delegato di Telecom Italia, lo sostituisce con una propria squadra, propri uomini, ma come si legge dalle interviste oggi di Arnaldo Puifontaine sui giornali italiani, pronti a trattare sulla rete, cioè politica, Stato? Eccoci qua, la rete che tanto ti preoccupa, perché non te la prendi tu, la inglobi nel grande progetto Open Fiber di Enel CDP, nato per investire nelle aree dove il mercato non investe, ma che da sempre ad alcuni allappa la lingua perché dice riprendiamoci la rete, in cambio del fatto che mi metti in migliore condizione di fare un grande accordo sulla Pay TV, che io adesso ho appena dichiarato che voglio fare con Tim, ma in realtà mi ero mosso per fare con Mediaset. Augusto Preta, dal suo punto di vista di osservatore terzo indipendente, ma lei è un osservatore da sempre sulla convergenza sui produttori di contenuti, attento ai problemi delle filiere economiche, non sulla grande partita di potere italiano. Secondo lei, qual è l'interesse dal punto di vista di quello che hanno in campo più rilevante che possiamo sperare come consumatori e attori del mercato italiano, al netto di tutte le cose politiche, Preta? Ma io vorrei anche dire che la vostra ricostruzione è del tutto condivisibile. Ho qualche dubbio sul fatto dei tempi, cioè io ho l'impressione che il cambiamento è talmente veloce che aspettare ancora un anno per definire gli equilibri e modificare, diciamo, le strategie può diventare un tempo troppo lungo, nel senso che a mio avviso l'ipotesi di Vivendi è una ipotesi che in un contesto come quello in cui gli OTT ancora non erano entrati in Italia, non avevano una dimensione consistente, il mondo ancora guardava alla transizione, diciamo, dal mondo del broadcast a quello del broadband come a una cosa molto futuribile, questa prospettiva era una prospettiva, come dire, molto avanzata. Oggi mi sembrerebbe quasi una prospettiva in ritardo, cioè nel senso che o queste cose vengono fatte e vengono concluse, oppure, diciamo, i tempi non ci sono più per rimettere a posto le cose. Non so se sono stato chiaro. No, no. Diciamo. Ecco. E quindi da questo punto di vista è chiaro qual era l'obiettivo iniziale, l'abbiamo già discusso in un'altra trasmissione. Sì. Quella era una prospettiva che aveva, diciamo, un futuro e che poteva quantomeno allargare il livello della competizione. E lei dice già superata. E oggi io temo che di fronte, diciamo, a questi cambiamenti di cui noi siamo ormai testimoni, il fatto di avere una Pay TV che funzioni e che sia concorrenziale a Sky e che entri in competizione con il mondo dell'OTT sia già una dimensione, diciamo, non più raggiungibile. Io ho l'impressione che i giochi a livello globale siano ormai stati fatti e che su questo, diciamo, la partita sia difficilmente recuperabile. Quindi da qui io vedo, diciamo, le difficoltà strategiche di questo periodo, cioè l'obiettivo non è stato raggiunto e si cerca un po' di guardare, diciamo, il fiume e non guardando molto più avanti. Sicuramente il mondo dei contenuti è il mondo che al momento ha visto lo sviluppo delle reti e quindi il mondo del video, del mobile, come avete detto voi, lo streaming e via dicendo. Questo è una cosa ormai ineludibile e non più modificabile. Oggi, diciamo, le prospettive, come mi pare ricordava Carlo Alberto in altre trasmissioni, sono un po' quelle dell'Industry 4.0, cioè dell'internet delle cose, dei dati, di tutto quello che riguarda il cloud. Ecco, Augusto, in questo dobbiamo ricordare che la partita con Enel è tutt'altro che neutra, cioè Enel comunque in quel mercato ci vuole entrare, ci deve entrare, ci deve entrare, e in questo senso riconvergere le telecomunicazioni fisse con la rete elettrica in un contesto appunto di smart home, Internet of Things, ha un suo senso, diciamo, di medio periodo, probabilmente anche di breve. Ricordo che in America... No, ma su questo sono, siccome mi è stato chiesto il tema dei contenuti... Certo. Cioè io sul tema dei contenuti comincio ad avere qualche dubbio, su quello delle reti, non essendo un esperto, mi pare diciamo che lì oggi si giochi una partita, diciamo, molto più importante. Ricordo che in America le voci di stamattina sono di una Sprint che vuole fondersi con Charter, e quindi di ancora una volta di grandi processi di consolidamento. È un tema per cui l'economia sulle reti sta puntando verso grandi oligopoli, diciamo regionali. Però, e non possiamo pensare che sia una questione. Ti faccio una domanda. Prego. Proprio che ha a che vedere con il cuore del progetto di sviluppo che ha in mente Starace e l'Enel, gran parte, magna pars di Open Fiber. Mi devi spiegare, Carlo Alberto, a questa banale domanda. Diamo per scontato di prendere, è un grande progetto, con grandi ritorni, quello di Enel, che a mia opinione, magari mi sbaglio, spiegami perché, fa pugni con l'idea che gli possa interessare acquisire la rete in rame di Telecom Italia. C'ha la propria rete Enel. Beh, non è solo il rame, cioè c'è un non tema di tecnologie, di back-end, cioè non pensate solo ai cavi. Quando si parla di rete, la rete è un'organizzazione complicata. Sì. Ovviamente i cavi, quello che consente di arrivare alle centraline, tutta la topologia della rete di Telecom è la più grande infrastruttura di come questo no? paese. La grande rete neurale chiaro. Di questo paese, in realtà. Ed è un tema insieme centrale. A quella elettrica, no? Insieme a quella elettrica, ma più di quella elettrica, perché su quella elettrica non passano i segnali intelligenti per adesso. Non c'è dubbio. E quindi per me, sul fatto che la politica pretenda di avere controllo su cose che non capisce, ma in generale ci sia un caso industriale ineludibile sulla convergenza delle reti e delle tecnologie, non solo a livello italiano, ma a livello europeo, a me sembra che su questa cosa non possiamo scappare. Abbiamo un azionista che non è intenzionato a investire sulle reti fisse. Allora, è un momento, perché poi faccio una domanda anche a Massimo Giannini su questo, che è rimasto con noi, e lo ringrazio. Perché tu mi stai dicendo, perché siccome l'orecchio attento sta captando che c'è qualcosa anche che non piace troppo nell'impostazione di Starace Enel da parte del partito di chi dice prendiamoci questa rete Telecom Italia, però tu mi stai dicendo in realtà no, Enel ce l'ha l'interesse comunque, come? No, Enel ha la necessità strategica di andare verso logiche di valore aggiunto, perché vendere watt non è un business sostenibile. No, la domanda è se questo passi attraverso l'acquisizione della rete attraverso Open Fiber di Telecom Italia. No, non lo so, guarda, va in porto molto prima un tema, una convergenza di team con Canal Plus, cioè la nomina di oggi è molto chiara, cioè preparatevi che parte un operatore, diciamo, di video integrato, digitale, nativo, il primo forte in Italia, che sorpasserà, e questa è la mia previsione, magari sbaglio, sorpasserà Sky, Mediaset, la Rai. Però l'ipotesi Vivendi Team è un'ipotesi che nasce un operatore che è forte di rete e che ha Vivendi come contenuti. L'ipotesi invece Vivendi Mediaset era no, facciamo massa aggregata più forte, critica, tra produttori di contenuti. Dipende molto dal grande schermo al piccolo schermo. Se prevale il piccolo schermo, cioè la mobility, mi dispiace, ma vince tutto un altro schema logico, e vince chi ha in mano la relazione quotidiana con l'utente e il consumatore. Quindi vince la cultura team, quella lì, proprio quella del mobile, fammi dire. Team sai meglio di me che è il peggior venditore di tutto il mercato delle telecomunicazioni italiane. Lo è stato. Se sì. Finisse la rete in altre mani e fosse un reseller, Telecom avrebbe fatto a pezzi. No, attento, da Vivendi. Stiamo parlando il mobile è tutto un altro film. Esatto. Nessuno ha mai parlato di cedere la rete mobile, e questa cosa non esiste assolutamente. Stiamo parlando di rete fissa che ha altre logiche. Quindi io, diciamo, il quadro è complesso. Io mi aspetto che Vivendi faccia la sua strada, e cioè diventi un operatore di contenuti integrato digitale in Europa. Massimo, abbiamo finalmente capito perché le nomine di Renzi erano fondamentali, o no? Sì, non c'è dubbio che erano fondamentali, perché come si vede la partita è molto più lunga e va oltre le elezioni. Ma tu ci credi davvero? Berlusconi può vincere, sì. Ma se guardiamo a come sta evolvendo il quadro, se guardiamo le indicazioni che arrivano dai sondaggi, va bene, vedremo, avremo tempo per discuterne dopo la pausa estiva di agosto. Noi torniamo dopo il Giornale Radio. Grazie Augusto Preta, grazie Massimo Giannini. Il segnale orario vi è offerto da il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin nel banco freezer. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua, siamo tornati in studio, cari sostenitori, ascoltatori, non so come dire, fan dei Conti della Belva. Oltre a me, Mario e Carlo Alberto Carrara Raffè. E sia, rimaniamo intesi così, che dopo la fine di questa trasmissione c'è la pausa ad agosto, ma noi torniamo il 9 settembre e ci siamo tutto l'anno prossimo. Non vi preoccupate se non ho dimenticato di dirvelo nel comunicato della conferenza stampa, ma la doppia sorpresa, ci siamo malgrado chi se l'era dimenticato. E detto tutto questo, sentiamo qualcuno di voi nelle telefonate sui temi che sono al centro di questa trasmissione. E lo sapete, siamo partiti dal report del Fondo Monetario Internazionale, però grande scontro italo-francese. Abbiamo evocato questa specie di scambio che ha come strumento la rete fissa di Telecom Italia, visto che lo Stato la vuole, e questi potrebbero dire i Vivendi: noi ve la diamo e in cambio però facciamo un'altra cosa che potrebbe interessare a Berlusconi. E i ospiti che erano con noi ci hanno detto: beh, forse non sbagliate, vediamo, però ci sono elezioni politiche di mezzo. Carlo Alberto Canefra Maffei dice: ma è una prospettiva anche tecnologica a spingere, certo, in quella direzione. Male, ragazzi, ci pagano per e passare tra male, poco noi parleremo dell'altro disastro emerso, il direttore generale Rota messo fuori dall'ATAC perché ha avuto, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, il merito di dire le cose come stanno. Caro sindaco Raggi, i numeri dicono che bisogna dichiararlo il concordato in continuità preventivo, perché noi non siamo solvibili. Invece è lui che va a casa e l'ATAC va a Ramengo, ma non riguarda solo l'ATAC, perché altre vedi graduatorie annuale delle municipalizzate nel settore trasporto pubblico italiano, altre sono in quelle condizioni. Di sicuro ce n'è una, la NM di Napoli, lo dicono i numeri, ma lo ha detto anche in questo caso poche settimane fa chi ha lasciato la guida aziendale, ed è di qui che riprenderemo, ma dopo qualche rapido passaggio con voi ascoltatori. Cominciamo con Francesco che ci ha chiamato dalla provincia di Sondrio. Francesco, dici. Buongiorno Giannino. Buongiorno. Sempre riguardo ATAC, ho sentito in una vostra trasmissione tempo fa che la metropolitana di Roma farebbe il doppio dei passaggi della metropolitana di Milano e incassa la metà. Posto che a Milano paghino tutti, il che non è, vuol dire che a Roma paga uno su quattro? No, vuol dire comunque che a Roma c'è un problema, e a Napoli è ancora più serio, purtroppo, di, tra virgolette, chiamiamoli, non mi piace, portoghesi, perché portoghesi, perché non si vede, perché bisogna identificare un carattere nazionale in quello, però di evasione e mancati controlli, questo non c'è dubbio. La invito sempre poi a parametrare, che però il problema è che l'ATAC deve servire una superficie che è di 1023 chilometri quadrati, stiamo parlando di oltre 4 milioni di persone, e da questo punto di vista quindi va parametrato anche con il fatto che i servizi che deve prestare, virgola, con una rete molto inferiore a quella in realtà sotterranea di Milano, tengono conto anche di parametri di sfida di efficienza incomparabilmente più seri e pesanti. Questo bisogna dirlo, perché poi bisogna stare precisi nel capire da dove nascono i disservizi, che sono l'effetto ventennale di una depredazione in cui destra e sinistra hanno concorso. Questo è il mio giudizio. Marco dalla provincia di Roma. Marco, prego. Buongiorno. Io ho chiamato perché, diciamo, per sfatare, se mai ce ne fosse bisogno, il mito dei dirigenti cattivi e dipendenti buoni che soffrono le loro decisioni. Perché in ATAC noi a Roma sono 40 anni che sentiamo storie di sabotaggi e ruberie nelle officine e nei depositi ATAC, e su questa questione non se ne esce. Cioè, l'elettorato della Raggi è costituito in gran parte da dipendenti delle municipalizzate romane, quindi non li toccheranno, continueranno a fargli fare quello che vogliono, quando vogliono e come vogliono. Quindi lei dice che ci sono le impronte digitali di una specie di continuità di interessi in chi ha votato, no, quella parte di continuità, che... Io non so se questo lo posso dire a Radio 24 in una sua trasmissione, ma il sindaco Marino aveva tentato una forte discontinuità e sappiamo bene come è andata a finire. E perché non potrebbe dirlo? È una sua legittimissima opinione, telefona, ci mancherebbe che... perché dovrei impedirglielo? Io vorrei lasciarvi con una immagine che plasticamente, diciamo, racconta quello che succede in ATAC. In uno dei depositi esiste una bacheca di grande 2 metri per 2, vetrata, con al centro un solo foglio A4. Questo foglio A4 non contiene ordini di servizio, cose, racconta, dice come fare per usufruire della legge 104, cioè esiste una unica bacheca grande 2 metri per 2, con al centro un foglio, un unico foglio di 20 che ha istruzioni sulla legge 104, che per chi lo ricordiamo, chi è in ascolto, è quella che consente un particolare regime di esenzioni e deroghe dagli obblighi di presentazione, turni eccetera eccetera, per assistere malati con in famiglia, cura parentale rispetto a patologie serie invasive di cui c'è bisogno di occuparsi. Questa è la legge 104, che nel settore pubblico ha percentuali di utilizzo molto più elevate che in quello privato, e in alcune parti del settore pubblico ancora più elevato, in alcune municipalizzate, quelle più scassate d'Italia, secondo i numeri certificati della Mediobanca, ancora più elevato. E ahimè, questa è la realtà. Allora andiamo a capire che cosa pensano della vicenda Rota, Raggi, Atac. E vedrete, io per questo dico, il problema non è solo romano, c'è un problema napoletano, tale quale, perché se andate a vedere la graduatoria, i numeri di Mediobanca, il report il 3 luglio, cioè è uscita l'edizione annuale, ma si può scaricare liberamente dal sito RS di Mediobanca, vedrete che nella graduatoria pluriennale di chi ha perso di più, l'ATAC nel trasporto pubblico c'ha le aziende di trasporto pubblico napoletane che vengono subito dopo, il polo gestito da EV che è a Napoli, EV è Interacquedotto Volturno, quello che gestisce il ferro nella Grande Napoli, e la municipalizzata invece che gestisce il resto del trasporto cittadino, cioè NM. E anche lì, se andate a vedere, è chiarissima la situazione, è chiarissima la situazione, perché addirittura l'azienda napoletana ha una copertura di, rispetto ai costi attraverso risorse proprie, che è peggiore e inferiore a quella dell'ATAC a Roma, per capirci, e è un problema di non paganti, di mancati controlli, che è ancora più grave di quello che si verifica a Roma. Ha un problema di dipendenza dai trasferimenti, ripeto, che è ancora più accentuato in quello di Roma, un problema di costo lavoro per unità di prodotto incredibilmente più grave di quello dell'ATAC, perché se si usa come parametro quello di verificare l'unità di misura del costo lordo medio dipendente rispetto a valore aggiunto determinato, ecco, nel caso di ANM a Napoli siamo al 140%, all'ATAC siamo al 113,6%, l'ATM milanese, per dire solo un'indicazione di massima di una municipalizzata che va bene, siamo all'89%. E chiudo per farvi capire perché parlo, ci tengo a parlare anche dell'ANM di Napoli, perché l'ANM di Napoli, rispetto a tutti i soldi che ha perso nelle ultime gestioni, ha avuto approvato il bilancio 2015 ricapitalizzazione comune e regione, ma ricapitalizzazione fatta per immobili, comunque il cui valore, quando anche se riuscissero a smobilizzare gli immobili, è superato già dalle aperte 2015, a fronte alle quali venne deliberato, e da quelle 2016 che sono preventivate, che tutti i giornali cittadini mattino hanno già scritto. Quindi siamo esattamente in una condizione di non sapere generale, come all'ATAC, ci ha detto Rota, risorse proprie per far fronte a il pagamento dei debiti finanziari, il pagamento dei debiti commerciali, la gestione ordinaria dei costi, e in queste condizioni il codice civile imporrebbe di dire alcune cose. Rota ve le ha dette chiare, ma due mesi fa, quando uscì, abbandonò la responsabilità al vertice dell'ANM di Napoli, anche l'allora capo dell'ANM di Napoli disse le stesse cose, e infatti è qui con noi oggi per questo Alberto Ramaglia, amministratore unico di ANM di Napoli fino a 2 mesi fa, tre oramai, anche lui un manager dei trasporti, non una persona, un capo corrente di partito, che se ne andò dicendo: a me duole dirlo, però il piano industriale di ANM a Napoli è irrealizzabile, il pareggio di bilancio 2017 è in questa maniera è irraggiungibile, i sindacati non mi sembra che ne abbiano la consapevolezza, gli azionisti, comune, regione, Campania e Napoli sono a una rottura, e soprattutto qui mancano 20 milioni di finanza ogni anno. Queste parole non hanno suscitato, esattamente come si vorrebbe a Roma, nessun tipo di intervento di discontinuità. C'è un nuovo capo azienda, si chiama Ciro Maglione, auguri a lui, però allora ci siamo detti, sentiamo per capire meglio anche il problema di Roma, perché pronunciate parole di quel tipo la politica non le prende sul serio. Quindi grazie intanto Alberto Ramaglia, ex amministratore unico di ANM di Napoli, per essere con noi. Buongiorno, buongiorno. Grazie. Buongiorno a lei. Io è due volte che scrivo sul Mattino citando le sue parole, le prese dalle agenzie di quel giorno, non la sto forzando, vero? Cioè, no, lei quelle parole le ha dette. No, però è opportuno solo alcune precisazioni sì. anche sui dati di ANM. Allora, parliamo un attimino dell'evasione tariffaria. E purtroppo il problema dell'evasione tariffaria è un problema nazionale, è un problema campano, nasce anche dalla disaffezione al trasporto per i tagli che ha fatto la regione nella precedente consigliatura, per cui il trasporto pubblico è diventato quasi residuale. Negli ultimi anni la tendenza è leggermente mutata. Parliamo anche di numeri di evasione. Tenga presente che i numeri dell'evasione non sono numeri aziendali, nel senso che in Campania c'è un consorzio che gestisce la tariffa integrata e questo le analisi per l'evasione, quindi non è l'azienda che, come si può dire, se la canta da solo. Perfettamente. Allora, i numeri dell'evasione sono sicuramente alti per quanto riguarda la gomma, siamo intorno al 49-50%, però sono assolutamente in linea, anzi al di sotto, quelli nazionali per quanto riguarda il sistema ferro. Sulle funicolari, che per Napoli rappresentano un aspetto fondamentale, sono circa 40.000 passeggeri al giorno, portano dalla parte collinare alla parte bassa della città, siamo nell'ordine del 3-4%. E anche su linea 1 abbiamo percentuali intorno al 7-8%, questo perché abbiamo le stazioni chiuse con i tornelli, per cui se noi rispetto al dato complessivo dei passeggeri che non pagano li riportiamo al totale dell'azienda, la percentuale del 24%, che non significa che bisogna essere contenti. Però al netto di questo, dopo la pausa rientriamo tra un minuto. Ecco, io vorrei che mi dicesse come mai, se un amministratore rappresenta alla politica la situazione detta da Rota a Roma, detta da lei a Napoli, la risposta della politica è vorrei mica che prendiamo quello come decisione, quello che dici tu, che impone il codice civile, mettiamo un altro e vediamo. Perché è possibile reagire così? Tra un minuto. Dimentica i compromessi, scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le messe. Della belva. Eccoci tornati qui in diretta ai compagni dei conti della belva sull'argomento Attac Roma, ma abbiamo visto anche ANM Napoli. Abbiamo con noi Alberto Ramaglia, ex amministratore unico di ANM di Napoli, che un po' di settimane fa se ne va dicendo, mi spiace dirlo, è molto amaro, però il piano industriale, il piano del risanamento finanziario, lo stato dei rapporti tra gli azionisti pubblici, abbiamo appena fatto in teoria un conferimento di risorse per adeguare la patrimonializzazione, ma si andrà al fatto che è di nuovo mangiato. Eppure insomma, arriva il nuovo amministratore delegato al suo posto ed è più o meno quello che si capisce che vuole fare la giunta a Roma dopo i temi e i numeri sollevati come da Alberto Ramaglia a Napoli e anche dall'ingegner Rota all'Atac a Roma. Come mai la politica tende, se mi consente l'espressione Ramaglia, a dare ogni volta un calcio al barattolo invece di affrontare seriamente i numeri che l'amministratore gli pone? Perché probabilmente ritiene che esista un'altra soluzione. Io concordo con quello che ha detto Rota in linea di massima e in linea generale qualcosa che ho detto anch'io. Il problema del trasporto pubblico in Italia probabilmente bisogna affrontarlo in un'altra maniera, in una maniera più risoluta, probabilmente spezzando il rapporto con le partecipate. Guardi, il problema, indipendentemente di ANM, di ATAC, di ora di GTT anche a Torino. A Torino, quindi, sì. Quindi sta diventando una pandemia. È un rapporto incestuoso. È un'azienda che il cui azionista è un ente, che sia il comune piuttosto che la regione, ma è anche colui che detiene il contratto, esatto, di servizio. Esatto. Cioè, che in teoria, dovrebbe essere il garante di come si fa controllato, controllore, quello che definisce standard, quello che poi paga a chi ha vinto la concessione, gli deve pagare il fatto, il rispetto della temperanza del contratto, e che a volte per la propria finanza del comune è più interessato a non pagarlo che a pagarlo. Quindi, perché sia chiaro a chi ci ascolta, un coacervo di conflitti di interesse, non si tratta di essere contro il pubblico. No, ecco. È un coacervo di conflitti di interessi, e in cui è una di quelle situazioni che purtroppo è la peggiore, in cui probabilmente hanno ragione tutti, ed è la cosa peggiore, perché quando sono ben distinti chi ha ragione e chi ha torto si può trovare l'accordo. Ma se abbiamo ragione tutti, se l'azionista intende operare sulla sua azienda in quanto, tra virgolette, padrone, l'azienda risponde al codice civile in quanto un SPA e quindi pretenderebbe l'autonomia. L'amministratore è nominato su una base di un pactum fidei con l'azionista, come è giusto che sia, perché se fosse un'azienda privata la proprietà sceglie l'amministratore, non fa certo un concorso pubblico, si sceglie chi vuole, e allora tutto questo nodo gordiano bisognerà aspettare. Eh sì, non lo saprei dire meglio rispetto a chi ci è passato sotto il fuoco, cioè Alberto Lamaglia, portando qualche cicatrice. Sì, però fammi dire che qui il problema è liberalizzare un mercato che invece è monopolizzato da enti pubblici. E secondo me, lo sai che sono un gran tifoso, e secondo me non è mica del tutto sbagliata l'idea del mio amico Renato Mazzoncini di comprarsele qualcuna di queste. Lo sapevo che facciamo incazzare. Ma non esiste, ma ti pare che noi per risolvere questo problema diamo tutto in mano allo Stato centrale? No, lo Stato centrale, cosa dire lo Stato centrale? Guarda, un'azienda che ha dimostrato di saper funzionare. L'azienda che esiste solo grazie ai trasferimenti sud, non diciamo, lo so che loro hanno tutt'altra idea. Ci ho avuto per l'ennesima ponte questa settimana ospite nel pomeriggio Marco Ponti, che ha scritto un meraviglioso libretto che invito tutti a leggere su come si fanno le grandi opere pubbliche e gli interventi delle ferrovie dello Stato nel nostro paese. Ecco, mi dispiace, fino a che non sono risolti alcuni di quei problemini di massima, per così dire, la tua idea. No, non è la mia. Vincerai il ferrovie dello Stato, è ovvio. Però facciamo tutto il monopolio pubblico, buonanotte. L'esperienza del mondo mi sembra che vada in tutt'altra direzione. Però, detto tutto questo, sicuramente avrete ragione voi. Ma il problema posto da Alberto Lamaglia è il problema clou. Per questo ci vuole un intervento che spezzi questa commistione impropria di interessi, questo vincolo incestuoso che sta tra le municipalizzate pubbliche mal gestite e il comune che lo amministra, che le considera cose proprie quando le dovrebbe considerare cose terze, che ha l'interesse da una parte a trasferire meno anche verso chi è brava ad ottemperare il contratto di servizio, e dall'altra pretende vincoli di fedeltà politica. Questo è il punto di fondo. Così nasce la depredazione ventennale nell'ATAC e le prassi sempre più basse di rispetto, di etica interna, efficienza economica, la parentopoli, gli amici degli amici che entrano nella fila di fornitura e così via. Allora sentiamo l'opinione di Andrea Giuricini, che segue anche lui da anni e anni i conti, la gestione finanziaria di Roma. Scrisse per IBL insieme ad altri anche le prime esercizi nel vedere per le tratte che non erano più affidate all'ATAC, ma un altro peraltro ente pubblico, non privato, un soggetto pubblico del trasporto, e vedendo come si risparmiava se non era l'ATAC in queste condizioni a gestirle. Andrea Giuricin, che insegna economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano, grazie di essere con noi, Giuricin. Buongiorno. Che dice? Lei se l'aspettava che andasse a finire Rota così rapidamente fuori dalla porta? Abbastanza, nel senso, conosco bene Rota dai tempi di ATM e quindi mi potevo aspettare una fine del genere. Quello che è assurdo è che la politica romana ancora una volta ha dato continuità a una situazione assurda e ad un'azienda che brucia troppi soldi. Nel caso di Napoli giustamente si ricordava il problema dell'evasione, che è reale anche a Roma, ma a Roma ricordo sempre che i ricavi da biglietto sono intorno ai 260 milioni di euro l'anno su dei costi di oltre un miliardo di euro. Ricordavi che non coprono nemmeno la metà dei costi del personale, vero? Cioè i biglietti non pagano neanche la metà dei costi del personale. E hai scritto che ci lamentiamo di Alitalia, ma ATAC è più grande, è un buco più grande dell'Italia, perché stiamo parlando di 6,3 miliardi di perdite e contributi nell'arco degli ultimi 6 anni. Confermi questi dati, Andrea? Esattamente, esattamente. Li ho ripresi anche ieri in un articolo proprio per il Foglio, dove riprendevo questi dati. È una cosa assurda, 6,3 miliardi nel giro di pochi anni, fra contributi e, diciamo, perdite dell'azienda. Cioè l'azienda continua a ricevere contributi e vengono bruciati per pagare stipendi. Stipendi di persone che stanno nel back office, cioè gli amministrativi. Chiaro, perché l'altra cosa che hai ricordato è la composizione tra, diciamo, dipendenti, diciamo, amministrativi di back office e autisti. Ci puoi parlare anche di quello, del modello organizzativo ci puoi parlare, per favore? Esattamente, cioè se noi andiamo a vedere i numeri dei dipendenti, ATAC ha circa quasi 12.000 dipendenti, Milano ha 9.500-9.400 dipendenti e i veicoli chilometri, cioè la produzione chilometrica delle due aziende, sono esattamente allo stesso livello, praticamente allo stesso livello. Ci sono 2.000-2.500 persone di troppo che la politica dovrebbe prendersi la responsabilità di dire: scusate, vi abbiamo assunto tramite parentopoli che tanto abbiamo criticato e non ci servite più, perché è uno spreco pubblico, si parla di centinaia di milioni di euro di spreco pubblico, e l'azienda va così, ma nessuno fa niente, e questo Rota giustamente l'ha fatto uscire fuori. Però Andrea, posso dire una cosa? Il Movimento 5 Stelle, che si era presentato a Roma con ATAC, patrimonio dei romani, seguiremo il modello Livorno-Nogarin del concordato preventivo, non è ancora avvenuto, è passato oltre un anno, non può essere colpa di chi li ha preceduti, e ora all'angolo dicono: e ma Rota doveva iniziare a licenziare dirigenti. Ma anche così il problema del costo del lavoro non si risolverebbe comunque. Forse hanno preso consapevolezza di quello che tu dici da sempre, cioè che c'è un costo del lavoro che è ingestibile e ingovernabile. Che pensi? Esattamente, proprio questo è il problema. Rota, per chi lo conosce bene, a Milano ha licenziato i dirigenti, quindi non si può sicuramente criticare questo a Rota. Detto anche questo, Rota è arrivato 3 mesi fa e si è accorto bene della situazione aziendale, ma chi pensa che licenziando solamente i dirigenti si risolvono tutti i problemi? Esatto. Evidentemente non ha mai visto un'azienda di trasporto pubblico, esatto, o un'azienda in generale dal suo eterno, perché esatto, il problema sono i 12.000 dipendenti prima di tutto, cioè la quantità di dipendenti che è il problema principale dell'ATAC. Mm-mm. Infatti. Detta così, ovviamente stiamo passando per i terroristi. No, però, ma per quelli nemici dei lavoratori, però, diciamola. No, però sul tema dell'evasione, scusami, c'è un tema anche tecnologico. Possibile che non si riesce ad adottare una tecnologia basilare? E scrivere che anche a Istanbul, che non mi sembra, come dire, una metropoli del futuro, i controlli di ingressi sono normalmente più alti rispetto a quelli di Roma. Esattamente. Allora, il problema principale poi rimane, come giustamente si ricordava anche nel caso di Napoli, ma anche nel caso di Milano, è soprattutto su gomma, cioè sul trasporto di superficie. Nelle metropolitane normalmente i controlli sono un po' migliori, anche se a Roma esiste un problema anche per quello. C'è un problema sindacale. Passare, diciamo, l'autista che diventi anche controllore. In Italia questa è una problematica sindacale ancora non risolta. No, totalmente. È all'origine del più delle manifestazioni di sciopero a Roma e a Napoli, certo, esattamente in questa azienda, proprio di fronte alle proposte degli amministratori, ovviamente, di adottare questo criterio. Lasciatemi dire che la questione, l'eccesso di personale, se andate a vedere sul bilancio, il problema di fondo, se comunque non si cambia radicalmente la maniera di gestire i servizi esternalizzati, ecco, le gare e i soggetti a cui sono stati affidati, le manutenzioni, eccetera, eccetera, dall'ATAC non si esce neanche da quello. Quindi l'ATAC è un coacervo di guai, questo è il punto vero. È il punto vero, nel senso che in quei 300 milioni e rotti di debiti dei fornitori commerciali che Rota aggiungeva oltre alla dimensione generale del 1340 milioni di debiti finanziari, derivano in larga misura dal fatto che poi gli amministratori nel tempo hanno iniziato a preferire a non pagare dei soggetti il cui servizio era stato appaltato fuori con evidenti criteri relazionali. E il problema è che a quel punto, però, siccome sono quelli affidatari del servizio di manutenzione, tu non c'hai più i pezzi per fare niente. Nel frattempo, con un parco circolante su cui non hai investito, significa che la percentuale a doppia cifra dei mezzi fermi non solo si innalza a livelli mai visti al mondo, ma il personale inizia a dire: beh, intanto riportiamolo perché è rotto. Rota dice anche questo nelle sue interviste: gente che finisce per lavorare 3 ore al giorno e mi consegna il mezzo senza che io abbia la possibilità di certificare altro che quello che mi dice lui. Insomma, cara Raggi, dovresti reagirti, dovresti reagire diversamente, perché prendertela con rota e far finta di non vedere, non sentire, non è una buona strategia. Ma ora dovranno decidere cosa fare da grandi, no? Prima o poi, o chiederanno, o finirà come con Alitalia, soldi pubblici, tiriamo la leva e arrivano i soldi pubblici. Boh. Però è un bello spettacolo di schizofrenia questi signori qua, devo dire la verità, rispetto alle scelte manageriali, a indicazioni di medio-lungo termine. A me, francamente, è una delusione così grande. Romani in ascolto, se non avete ancora firmato la richiesta di firme, facciamo un appello perché andiate a firmare. Chi vi dice che il concordato preventivo in continuità in macelleria sociale vi prende per il culo? Non è vero, serve a fermare la spirale del loop del debito finanziario, serve a dare poteri straordinari di gestione a chi si occupa della gestione del commissario concordato, e serve a dare garanzie ai dipendenti. Nel caso in cui si facesse la gara, c'è anche un vincolo su chi vince la gara per il TPL nella città ad assorbire una parte del personale di chi faceva la gara precedente. Posso essere non essere d'accordo, ma è così. Questa cosa va detta. Chi vi dice che il concordato preventivo significa buttare la gente per strada? Mente sapendo di mentire, perché sta mantenendo gli schifosi che ha messo alla testa di quelle aziende per affari. Questa è la verità vera. Vi dicono che chi vuole le procedure concorsuali di rispetto al codice civile è un bandito. I banditi sono loro, sono dei miserabili. Ladri! Ecco, tanto per tornare a un vecchio cavallo di battaglia del vecchio pazzo Giannino. Grazie anche Andrea Giulicin, grazie Alberto Ramaglia, e noi ci risentiamo tra un minuto con Udo Gumpel. Questo programma è presentato da Credimi.com, il finanziamento digitale. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamo. Della belva. Eccoci qua tornati col nostro amico Udo Gumpel. Ciao Udo, come stai? Bene, benissimo. Allora, nel caldo romano, ma sempre bene. Nel caldo romano, ma tu anche ad agosto sarai sul pezzo sempre, no? Ma tu mi paghi i biglietti dell'ATAC, Udo? Non pensavo, per capire. Ma guarda, questa è infatti una delle esperienze che tutti i miei figli fanno quando saliamo sull'Otto, che è questo mezzo che attraverso, peraltro funzionante, puntuale, quasi sempre, e noi che saliamo insieme a un gruppo di americani che abitano di solito di fronte a casa nostra, e qualche suora straniera siamo gli unici a usare, proprio cioè, sono tedeschi, delle scene, americani delle e scene suore assurde, va bene. Perché hanno delle scene assurde, no? Perché il rumore della macchina che oblitera è molto rumorosa, perciò si sente, no? E io devo pensare che il 90% dei romani hanno la tessera dell'abbonamento. E certo, no? Mica vorrai pensare che sono gratis. No. Sono portoghesi, no? Come voi sapete, a Roma si dice chi non paga è portoghese, no? Giusto? Il Portogallo va meglio, la sua economia, noi ci sforziamo di emularlo. Senti, ma al di là di tutto, io qui ieri ho letto un lunghissimo articolo di approfondimento sullo Spiegel, e ragazzi, ma voi l'avete fatta grossa, perché lo Spiegel Online fa questa lunghissima inchiesta piena di cose che non sapevo, a dire la verità, sull'ipotesi che al di là... No, è una cosa di una inaudita gravità. Guarda, è una cosa che minaccia la Germania più che ogni altra cosa, perché 20% dei posti di lavoro in Germania dipendono in modo diretto o indiretto dalle industrie automobilistiche. Ecco, perché siccome non l'abbiamo ancora, non l'abbiamo ancora spiegato a chi ci ascolta, l'ipotesi allora è che... Allora, si tratta, vabbè, lo posso raccontare io da bravo tedesco, esatto. Perché si fanno i giornalisti, raccontano le magagne al di là della provenienza della magagna stessa. Dunque, io da giornalista tedesco dico... le grandi industrie tedesche automobilistiche, i giganti del premium che danno lezioni a tutto, hanno dato una lezione incredibile di truffa mondiale, perché loro si sono messi d'accordo circa 6, 7, 8 anni fa, questo è almeno 8 anni che è in vigore questa storia, se non 10, per creare un cartello illegale, naturalmente, e per mettersi d'accordo tra i premium produttori per non farsi troppa concorrenza. E allora la cosa più grave non è il tettuccio del cabriolet che hanno anche lì, si sono messi d'accordo per non farsi troppa concorrenza. La cosa grave per la salute dei tedeschi, di tutti i compratori, di tutti gli abitanti delle grandi città, sono le esalazioni, sono quelli del NOx e del diesel. Sì. E loro, pensate, si sono messi d'accordo per non costruire piccoli serbatoi abbastanza grandi come sono adesso nell'Euro 6, ovvero 15-20 litri di questo AdBlue, che è PP color blu, no? In pratica, perché abbatte queste sostanze che sono NOx, che sono gli biossidi di azoto. Ecco, e questo AdBlue è una mistura di urea, sì. Sì, sì, ma pensate, sì, parliamoci chiaro, no? Viene messo in una misura tipo 2 litri ogni 1000 chilometri. Loro hanno costruito negli anni passati dei serbatoi piccolissimi che non avrebbero mai retto il percorso chilometrico da una revisione all'altra. Allora, per non costringere il cliente a fare anche, oltre al diesel, all'olio, anche il controllo del AdBlue, addirittura erano sigillati questi contenitori, e loro hanno detto: vabbè, abbassiamo semplicemente il consumo, ovvero quando si trova nel test, no, nel controllo della motorizzazione, funziona perfettamente perché i bravi ingegneri tedeschi sono molto ingegnosi, loro hanno costruito dei software, dei sensori della macchina che capisce quando sta in condizioni di motorizzazione quando sta su strada. Questo è venuto fuori, come voi ben sapete, qualche anno fa da un sospetto americano, e un ente tedesco di Berlino, io ci sono andato, ha controllato, perché loro volevano difendere la bontà dell'industria automobilistica tedesca. No, non è possibile che noi tedeschi truffiamo. Invece hanno trovato la truffa, che era molto ingegnosa. Oggi, per esempio, in questi giorni le ripercussioni cominciano a diventare una valanga sull'industria automobilistica tedesca, perché per esempio Audi, che sembra al centro dello scandalo, Audi, questa marca favolosa di ingegneria meravigliosa, ma i bravi ingegneri si sono inventati, quando hanno capito che non doveva essere nella centralina del motore, hanno messo un'altra centralina addirittura nel cambio, pensate un po', sempre più ingegnosi a nascondere questa cosa. Ma Udo, siete un popolo di ingegneri, siete un popolo di ingegneri, quindi avete anche il merito. Io devo dire la verità, Udo, aspetta, ti interrompo. Scusami Oscar, una cosa molto importante: tutto questo scandalo non viene fuori, questo è uno scandalo nello scandalo, da parte del governo tedesco, che come oggi sappiamo era da 4-5 anni informata della truffa, ma viene fuori da, per fortuna, giornalisti tedeschi. Benissimo. Che hanno spiattellato tutto. Dunque non c'è la solidarietà tra tedeschi, ma tra giornalisti che fanno un buon lavoro e un'industria che crede di poter approfittare del buon nome dell'ingegneria tedesca, perché la gente crede che un tedesco non sarà in grado antologicamente però di fare una Udo, truffa del genere. Io invece faccio, questa è la cosa ti faccio grave, una domanda. Qui stiamo parlando, cari ascoltatori, di una prassi di ordinaria, era diventata di ordinaria cooperazione, cioè, tra tutti i gruppi, da cioè Daimler, BMW, Audi, Porsche, Volkswagen. Stiamo parlando di 60 gruppi di lavoro che lavoravano per coordinare queste cose qua, e con numero di meetings di queste, intorno a 1000 in 5 anni, cioè stiamo parlando di un asse portante. Udo, io purtroppo ho l'obbligo di dirti una cosa, non credo, dopo che sono rimasto senza parole nell'apprendere i dettagli di queste indagini giornalistiche, il rilievo che mi sembra che abbia è tale che affrontarlo in termini di sanzioni avrebbe tali e tante conseguenze, secondo me sarebbero positive, ma io ho l'obbligo di dirti che credo che verrà impugnato il freno a mano. Tu che mi dici? Allora, la cosa importante è che questi ieri sono stati messi alla porta 4 su 7 dei membri del consiglio di amministrazione della Audi, che sembra che veramente sia lo scandalo, però tutto in ritardo tremendo, perché il capo dell'Audi, ai tempi che fu inventato la truffa, è oggi capo del gruppo Volkswagen, signor Müller. Dunque, lo scandalo è solo all'inizio, e chiaramente se tu multassi tutte le aziende che hanno partecipato alla truffa, potremmo andare a verso i 100 miliardi. Esattamente. Di multe. Questa è una cifra che metterebbe in ginocchio non solo l'industria automobilistica tedesca, ma l'intero settore europeo, perché voi dovete comunque sempre considerare le altre gli altri gruppi automobilistici europei, anche mondiali, si sono messi silenziosamente in fila a questo, perché naturalmente è noto tra gli ingegneri questa truffa. Pensate, c'è del 2013 una lettera di un gruppo di ingegneri non coinvolti nella truffa che ha scritto: questo è un sistema truffaldino, bisogna smetterla, perché se esce fuori, questo è il succo della lettera degli ingegneri dell'Audi al dirigenza dell'Audi, al del gruppo Volkswagen, se viene fuori questo porta delle multe che ci uccidono a tutti noi. Capito? Cioè, c'era la consapevolezza del disegno criminoso, criminale è il comportamento, e loro mettono a rischio, a repentaglio, non solo l'industria automobilistica tedesca, che poi peraltro sarebbe poco da gioire anche per l'Italia. No, ma certo, ci mancherebbe, siamo una filiera di fornitori, ma ci mancherebbe, certo. Ma no, comunque è una gravità inaudita, perché questi signori delle grandi industrie automobilistiche tedesche si sono sentiti troppo sicuri, ed è la spocchia di questi signori e di sentirsi al di sopra della legge, un comportamento che non è legato ad una nazione, una cultura, viene sempre quando vengono a mancare i controlli. E lì il governo tedesco, la Merkel, ha delle pesantissime responsabilità. Sono molto d'accordo con te. Grazie per aver raccontato ai nostri ascoltatori una cosa che secondo me i giornali italiani non hanno ancora capito perché. Secondo me non hanno capito proprio di cosa si tratta. Perché, ripeto, la stampa tedesca ci sta andando avanti con i carri armati, e io stesso, leggendo i particolari e le proporzioni dell'opera comune svolta per mettere tutto al riparo di ogni controllo, sono rimasto senza parole. Cioè, è veramente una storia pazzesca. Vedremo quali saranno le loro sviluppi. Ricordiamo che c'è un'autodenuncia di Volkswagen e Daimler all'antitrust europeo, un'autodenuncia, quindi comunque sia il procedimento va avanti a questo punto. Vedremo, e intanto grazie Udo Gumpel, noi ci sentiamo quando torniamo a settembre, ma vedrai che ci sentiamo anche prima. Un abbraccio, ciao. Noi torniamo tra un minuto. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati per questi ultimissimi minuti. Vi ho visti perplessi anche voi sulla gravità dello scandalo tedesco, ragazzi. È una bella cosa che gli scandali avvengano, come dice il Ma Mattello. Io posso dire che una cosa mi ha colpito, che ha retto 4 anni da che è esplosa la cosa Volkswagen prima di uscire fuori. Guardate che questo è un segno di impenetrabilità dell'accordo collusivo, malgrado fosse esteso a tutte le case. Io, e questa è la prima cosa, dico: ma che cavolo di mondo viviamo se solo 3 anni e mezzo dopo che esplode la cosa che fa scrivere tutto il mondo, mobilita tutte le autorità del mondo avanzato, adesso capiamo che cosa c'era davvero dietro. Ma perché, Oscar, perché hanno scartellato, perché Volkswagen si è autodenunciata per minimizzare l'impatto della sanzione. Alla fine il whistleblower serve sempre, diciamo. Esattamente, bravissimo. Allora, c'è ancora un ascoltatore tra i tanti che ci hanno telefonato da Roma sul problema dell'ATAC. Alfredo da Roma, prego Alfredo. Sì, buongiorno a tutti. Sì. Volevo intervenire sul problema dell'ATAC proprio perché, diciamo, mi riguarda da vicino. Io sono un lavoratore della Roma TPL, che è il primo appalto, diciamo, del comune di Roma. Diciamo, è quella fetta di mercato che è stata data in appalto ai privati, e non, alla fine, non combinando niente, io lo posso dire, perché alla fine è una remissione totale. Qui stiamo lavorando in condizioni veramente, condizioni veramente esasperate. Perché non c'è più niente, non c'è più stimolo né per venire a lavorare né per niente. Qui c'è soltanto uno spreco di soldi in assoluto, uno spreco di denaro, uno spreco di soldi, e nessuno fa niente. Noi ci sono stati dei blocchi, ci sono stati ultimamente, anche più di un anno fa c'è stato un blocco di 8 giorni, che ne hanno parlato le radio, hanno parlato niente, non è cambiato assolutamente niente. Quindi lei, diciamo, qualche fiducia sul fatto che si possa rimettere in sesto non ce l'ha, vedendola da lì dentro. non si possa rimettere, cioè manca una fetta di introiti che sono i biglietti. Io ci lavoro, quindi lo posso dire per certo. Abbiamo tutti questi politici o politicanti, abbiamo tutti questi grandi ingegneri, questi grandi amministratori delegati che fondamentalmente non sanno fare, per me non sanno fare 2 per 2, o non ci arrivano, non so, perché cioè in tutta Roma si può dire in che condizioni sta il servizio pubblico del trasporto, tutti lo sanno. Sembra che quando si intervistano queste persone, io parlo dai politici fino ai grandi, sì, ai grandi amministratori, sembra che cadano dalle nuvole. Sembra che cadano dalle nuvole. No, quello che le posso garantire è che sembra, quando uno ne scrive, o meglio, scusa, sembra che uno nel farlo offenda innanzitutto Roma e Romani, B. Poi lo faccia per portare acqua all'opposizione pro tempore. Siccome nel frattempo hanno governato la destra, la sinistra, adesso anche 5 Stelle, questa accusa si erode da sola, si autodistrugge, nel senso che tutti sono stati al governo dell'opposizione, tutti stanno dando, ohimè, prova di avere metodi, mi dispiace dirlo, però molto più analoghi che diversi tra di loro, e non si manca di rispetto ai romani e a Roma. Al contrario, chi lo fa chiede che Roma abbia, come altre parti d'Italia e come grandi metropoli del mondo, pieno diritto riconosciuto ad avere uno standard di servizio accettabile. Quindi lo si fa nell'interesse dei romani, è ovvio, e l'interesse di un'attrattività verso tutto il mondo che Roma esercita, esatto, no? E che ogni volta restituisce gente che viene per la prima volta l'impressione che non verrà mai più. Ecco. Posso ricordare che un servizio pubblico locale ben fatto è un'infrastruttura essenziale per una città che deve vivere comunque di turismo, non soltanto di burocrazia. Quindi è un dovere di tutta la nazione e non soltanto di Roma. Quindi non vorrei che ATAC fosse limitata a un problema dei romani per i romani, è un tema che giustamente deve farsi, di cui deve farsi carico la collettività, il che non vuol dire, caro Oscar, che ci accollano il consigliere della sindaca, sta dicendo vai da Padova e fatti dare i soldi, ecco, sempre così finisce. No, sto dicendo che non possiamo affidare ai romani, che palesemente non se la stanno cavando, la risoluzione di un problema che è una vergogna nazionale. E quindi cosa faresti, bro? No, perché dopo che hai detto questo, detto, significa... Io te l'ho già detto cosa farei, cioè metterei a gara il, a gara. Il mi spiace che però, il testimone... Il bubone ATAC, visto che i romani non sono stati attenti, l'hanno creato, chi lo risolve? No, ATAC è un problema FS. Dei suoi azionisti, per me il problema è il trasporto FS, pubblico locale, dillo. No, io voglio salvare il servizio, non l'azienda, l'azienda probabilmente non si può salvare, mi dispiace. Questo lo penso anch'io, che il coacervo di problemi in aziende come quella romana e napoletana... Io penso che impongano il concordato pronto in continuità, non c'è poco da fare. È amaro, sì, nel caso di Roma è molto amaro, perché è ovvio che scattano tutte le previste per legge per il sostegno a chi perde il lavoro, però significherebbero molte migliaia di persone non recuperabili nel perimetro di chi ovviamente dovesse vincere poi la gara affidata per la concessione di servizio pubblico con gara pubblica. Lo so. Ma l'alternativa qual è? Quella di continuare a bruciare risorse avendo un servizio fatto coi piedi, questo poi è il punto. Sì, c'è un tema anche di innesto di tecnologie importanti su un modello complesso come Roma, proprio per la sua estensione ha bisogno di tracciabilità, di visibilità, ha bisogno di presidio. Quando si parlava di garantire la compliance, cioè l'acquisto del biglietto, non c'è soltanto l'incarico da dare all'autista, ci sono anche sistemi di videocontrollo remoto che consentono l'intervento immediato, e stiamo parlando di cose che costano poche migliaia di euro, caro Oscar. Perché non si prendono decisioni in questo senso? E io non lo so, non penso che lo possano fare i politici. Va bene, detto tutto questo, cari compari, cari ascoltatori, giurate voi di fronte ai nostri ascoltatori che sarete qui in studio il 9 settembre sabato, giurate! Lo giuro! Ecco, di fronte a questa patetica autocaricatura, grazie per anche questo ciclo di ascolti, passate un buon agosto, noi il 9 settembre siamo qua, io il 4 ricomincio a lunedì, la settimana di settembre ovviamente con gli impegni la mattina e il pomeriggio anche, perché dovete sapere che la versione di Oscar il pomeriggio diventa di un'ora, passa dalle 4 alle 5, buon agosto!